Con Michele Crocchiola di Movies Inspired per parlare del film Omicidio al Cairo che uscirà in sala giovedì 22 febbraio. Michele, ben ritrovato. Grazie a te, ben ritrovato a tutti gli ascoltatori. Allora, lo raccontiamo in breve? Beh, è un giallo, è un thriller, quindi non vorrei raccontarvi troppo. Diciamo Certo. che c'è un poliziotto, un detective al Cairo, corrotto ma non troppo dal cuore d'oro. C'è ovviamente una testimone di un assassino che va protetta e c'è una femme fatale, cantante notturna bellissima, di cui il poliziotto non può far altro che seguire le orme. E ci sono tutti gli ingredienti del classico noir o del classico thriller. Se vi ricordate LA Confidential con Kim Basinger, sapete di cosa sto parlando, solo che è tutto ambientato al Cairo nei giorni immediatamente precedenti alle rivolte di Piazza Tahrir. E quindi il contesto, l'atmosfera, la corruzione del potere della polizia sono un protagonista aggiuntivo pazzesco. E quando tu esci dal film, hai tutta una nuova visione di quello che è l'Egitto di oggi. Ecco, proprio per questo mi sembra un film importante, anche molto, molto ben riuscito, che ci dice anche molto sulla realtà dell'Egitto, come dicevi tu, di oggi, con quello, come funziona un corpo come quello della polizia, come funziona la corruzione, come funziona il rapporto tra organi dello Stato e manager rampanti. Esattamente, c'è tutto quello che hai detto tu e soprattutto c'è anche, devo dire, il potere del denaro, no? Cioè Sì. tutto questo denaro sotto forma di tangenti, di furti, di piccoli favori che circola continuamente nel film e nessuno ne è immune. Tutto è governato da questi soldi che girano con le conseguenze poi ovviamente che ci sono nel film. Devo dire che il film ha vinto il Sundance Film Festival, quindi il più importante festival di cinema indipendente americano l'anno scorso. Ha vinto tutti i premi nazionali praticamente in Svezia, perché il film è svedese, di nazionalità, regista, la produzione è svedese, battendo The Square, è stata una sorpresa anche per noi. E è stato un grande successo la scorsa estate in Francia. Quindi sta facendo una sua carriera internazionale sorprendente, credo proprio perché sia gran bel film. Michele, cosa sappiamo in Italia di Tariq Saleh? Sappiamo purtroppo troppo poco, perché credo che sia il suo primo film distribuito in Italia, però sappiamo qualcosa di Fares Fares, che è il protagonista del film. Lo riconoscerete forse quando lo vedrete, lui è il suo nasone, lui è svedese, anche se ovviamente il viso e il nome vi dice che è un immigrato di seconda generazione. Lui è il protagonista assoluto di un film di quasi 20 anni fa che si chiamava Yalla Yalla, una commedia svedese sull'immigrazione riuscitissima, se siete dei cinefili recuperatela. E Sì. quindi insomma poi quando vedrete il film vedrete Fares, bravissimo a fare il detective, ricordatevi che è uno svedese anche se non sembra, ecco, fa un po' ridere. Michele, cosa ti è piaciuto del film? L'atmosfera, il ritmo e la ragazza, devo ammetterlo. C'è questa attrice che fa appunto io la chiamo la femme fatale, che fa la cantante Night, che il detective inizierà a seguire, uno splendore, veramente uno splendore. Però insomma, a parte questo, è veramente un gran film. Dura, sono le sue poco meno di 2 ore. E vi assicuro che sarete incollati alla sedia dall'inizio alla fine. Oltre ai premi, com'è stato accolto dal pubblico all'estero? Molto bene. Vi citavo prima il risultato francese, 400.000 spettatori, perché dà proprio l'idea di come il pubblico abbia lavorato di passaparola. Ma Sì. anche il premio del Sundance è un premio del pubblico, non c'è una giuria. Quindi Sì. è proprio un film per gli spettatori. Che uscita sarà qui in Italia? Allora, noi usciamo in un periodo complicato, ci sono un sacco di bellissimi film al cinema, siamo a 10 giorni dagli Oscar, che incidentalmente coincidono col giorno delle elezioni, quindi sappiamo cosa seguire quella notte. E quindi facciamo un'uscita questa settimana nelle grandi città, a Roma sarà al Farnese, come d'abitudine. Speriamo magari la prossima di allargarlo ad altre sale e comunque dal 29 ci saranno altri cinema in tutta Italia che allargheranno, quindi come si dice in questi casi un'uscita stretta e poi un allargamento successivo. Benissimo, allora ricordiamo Omicidio al Cairo in uscita il 22 febbraio in Italia per un film di Tariq Saleh. Michele, un abbraccio, un saluto, a risentirci presto. Grazie molto a voi e all'attenzione che date al cinema indipendente. Alla prossima, ciao Michele.